il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. L'energia è il motore dell'universo, ma anche la base per la nostra vita. Non è quindi solo per motivi di risparmio economico o per diminuire l'inquinamento che oggi si parla sempre più spesso di energie rinnovabili e sostenibili. Per capirne qualche cosa di più, esiste a Padova, nei pressi di Padova, il Parco delle Energie Rinnovabili della Fondazione Felice Onlus. Abbiamo oggi la possibilità di saperne di più parlando con il direttore organizzativo appunto del Parco Fenice, Andrea Spataros. Buongiorno a tutti. Ecco, vorremmo intanto capire che cos'è questo centro, come è nato e che cosa si fa in questo luogo. Beh, il Parco Fenice nasce dalla volontà del Consorzio Zona Industriale, degli scout del CNJ di Padova di riqualificare un'area e votarla a uno dei temi centrali per lo sviluppo dei prossimi 20 anni, ovvero le energie rinnovabili e il risparmio energetico. Qui dentro ci occupiamo, lavorando con gli studenti, lavorando con le aziende, lavorando con gli installatori, lavorando con i cittadini, di promuovere le energie rinnovabili, spiegare che cosa sono, come funzionano, come si installano, come si portano a casa, come vanno utilizzate, quali sono le tecniche per ridurre i consumi e dove si può andare a agire per avere una vita migliore anche su questo fronte. Quindi il parco si rivolge in realtà a fasce diverse di cittadini, quindi si fa dai bambini agli adulti. Per prima cosa comunque intanto si può accedere, proprio un parco al quale si può accedere liberamente, e poi fate anche tutta una serie di, ci sono una serie di percorsi didattici per i ragazzi. I percorsi didattici per le scuole sono circa una decina. I cittadini che vogliono venire in visita al parco possono accedere a piedi e in bicicletta sempre liberamente. Per quello che riguarda l'accesso con le macchine, durante la settimana secondo gli orari di ufficio, e invece nei weekend a seconda della tipologia di manifestazioni che sono previste al parco. Qui papà e figlio possono venire tranquillamente a vedere, curiosare, capire, provare. Ci sono delle attività interattive che sono libere, che si possono fare. Ci sono spazi dedicati anche alle feste di compleanno, perché non è detto che tutto si debba fare attraverso la scuola, ma anche nei momenti di svago si possono utilizzare per apprendere e iniziare a, come dire, seminare un semino che speriamo germogli presto su questo tema. L'altro, il grosso lavoro che viene svolto è con le imprese, i grossi player nazionali ed internazionali, produttori di tecnologie che nella nostra regione hanno la sede e che grazie anche alla formazione che noi facciamo insieme a loro riescono a tenere alto il livello occupazionale anche in un momento difficile. E questo è uno degli altri aspetti centrali del nostro lavoro, nel senso che l'energia verde non è solo bella, non è anche intelligente, è anche uno degli elementi centrali per mantenere alto il tasso occupazionale e lo sviluppo nel nostro territorio. Senza questi due elementi tutto il resto, insomma, viene decisamente più difficile. Ecco, parlando di imprese, voi qui svolgete dei corsi anche di formazione, ci sono dei laboratori, delle aule didattiche? Noi, in collaborazione con gli enti di formazione delle associazioni di categoria, lavoriamo per formare gli installatori attraverso dei laboratori pratici dove si montano e si smontano gli impianti. In collaborazione con Enea andiamo ad approfondire le problematiche più complesse legate ai singoli impianti e formiamo professionalità che da tutta Italia vengono qui per formarsi e ritornano nelle diverse regioni con delle competenze che prima non avevano e che permettono di continuare a lavorare laddove la crisi invece andrebbe a colpire. Ecco, torniamo invece ai ragazzi e ai percorsi didattici. Possiamo avere un esempio di percorso didattico, per esempio il fotovoltaico oppure, non so, l'energia eolica? Ma il fotovoltaico sicuramente è stato uno dei percorsi più interessanti, perché è quello più difficile da poter spiegare ad un bambino di 8 o 10 anni. Il drogaggio del silicio, che sta alla base della tecnologia, è un concetto complesso, si parla di boro, di fosforo, di atomi. Ma questo ci ha permesso di raggiungere degli ottimi livelli di semplificazione dei processi, per cui attraverso la visita agli impianti, attraverso una serie di visite, giochi e applicazioni interattive, attraverso una serie di esperimenti, anche i bambini più piccoli riescono a capire i concetti. Detto ciò, i ragazzi delle superiori possono venire qui e montare e smontare un vero impianto fotovoltaico. Ecco, ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Your love is bright as ever. Even in the shadows. Baby, kiss me. Before they turn the lights out. Your heart is glowing. And I'm crashing into you. Baby, kiss me. Before they turn the lights out. Before they turn the lights out. Baby, love me lights out. In the darkest night. Run now. Siamo in linea con la trasmissione del quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di energie rinnovabili e stiamo parlando con Andrea Spataros, direttore organizzativo del Parco Fenice, che è nei pressi di Padova. Beh, la prima cosa, dov'è questo parco che non l'abbiamo detto? Ma Parco Fenice è a Padova, a cavallo, diciamo, quartiere Camin Forcellini, uscita 14 della tangenziale. Isola di Terra Negra, assolutamente, facile da raggiungere sia dal centro città sia a piedi che in bicicletta, anche con le nuove ciclabili e la nuova passerella sul canale San Gregorio, sì, ovviamente in macchina dal sistema delle tangenziali. Ecco, dicevamo che non ci sono solo corsi o percorsi didattici per ragazzi, ma in questo luogo si fa anche innovazione, nel senso che è al centro di progetti, in particolar modo progetti europei che lavorano proprio, che sviscerano un po' la tematica delle energie rinnovabili. Ma i fondi di Horizon 2020 saranno centrali per lo sviluppo del nostro territorio, sia per la ricerca delle aziende fatta dalle aziende, sia per lo sviluppo del territorio. Il nostro compito è accompagnare le imprese e gli enti, siano questi territoriali o associazioni di categoria, nel reperimento di questi fondi, anche attraverso specifici corsi di formazione nei quali insegniamo come andare a caccia di questi soldini che l'Europa mette a nostra disposizione. E al parco abbiamo già diversi prototipi di prodotti realizzati attraverso progetti di questo tipo, ma ogni giorno abbiamo nuove richieste e siamo felici di condividerle con altri per andare alla ricerca di nuovi finanziamenti europei. Ecco, in conclusione di questa trasmissione possiamo anche dare un appuntamento, perché proprio domenica 18 maggio ci sarà la possibilità di visitare il parco con una festa, ma dici tu direttamente? Domenica 18 maggio al Parco Fenice, festa Green Love, dalla mattina alle 10 fino alla sera alle 18 per bambini e famiglie, quindi cavalli, caprette, animali, giochi, la possibilità di fare la pasta col pane, cotta nel nostro forno a legna, vedere i laboratori, e per i più grandi gara di grigliata, dove con la protezione civile noi metteremo a disposizione di tutti le braci calde e ognuno arriverà con la sua griglia e con la propria carne per fare festa con gli amici. Ovviamente carne, pesce, verdure, non ci focalizziamo su nulla. Quindi 18 maggio, c'è un sito internet nel quale si possono avere queste informazioni? Dal sito di fondazionefenice.it è possibile scaricare la scheda di iscrizione per la gara di grigliata o vedere il programma completo per domenica 18 maggio. E ovviamente anche avere informazioni su tutte le attività che si svolgono in questo luogo. Grazie. Grazie ancora a voi e buon proseguimento. Ed eccoci quindi alle consuete notizie. I gelatieri di Confartigianato Veneto lanciano l'allarme contro le gelaterie self-service che si spacciano per essere agri. Nessuna polemica sull'idea, molto buona visto il successo, e sulla qualità, afferma Marco Viel, presidente regionale Veneto dei gelatieri di Confartigianato. Ma un gelato agri deve essere prodotto in un'azienda agricola. Purtroppo una definizione per legge di cosa sia una agrigelateria non esiste e nel vuoto normativo c'è chi ne approfitta. È il caso di alcune catene di prodotto emulsionato che, spiega Confartigianato, non è un vero e proprio gelato ma una emulsione creata da una macchina speciale. Si tratta di un modo diverso e sfizioso di proporre ai clienti il gelato soft prodotto con macchine speciali, ma non significa affatto che si tratti di un agrigelato ed è anzi da sempre considerato un prodotto semi-industriale, ben diverso da quello servito nelle gelaterie tradizionali artigiane, che, ricorda Viel, deve essere prodotto soltanto con latte, uova, zucchero e frutta. Importante quindi è informarsi e sapere cosa si sta consumando. Giunge la terza edizione dal 10 al 18 maggio alla Fiera Campionaria di Padova, la Settimana dell'Ambiente Veneto, una serie di eventi e convegni che mirano a far conoscere ai ragazzi il territorio in cui vivono e aumentare negli adulti la consapevolezza delle sfide che pone un ambiente estremamente urbanizzato come il Veneto. Segnaliamo solamente tra i numerosi eventi la presentazione di un film sul fiume Muson dei Sassi, di alcune app, per esempio per segnalare il rischio idraulico, la presentazione del Festival delle Tegnue e sabato 17 e domenica 18 maggio l'apertura al pubblico del centro meteorologico di Teolo e del centro valanghe di Arabba dalle ore 9 alle 15, un'occasione quindi per visitare queste due strutture. Dal 17 al 25 maggio ritorna invece la settimana della bonifica e dell'irrigazione, iniziativa che nel corso degli ultimi anni è divenuta un'occasione di significative relazioni fra consorzi e comunità locali grazie a diversi momenti di comunicazione. Si terranno infatti vari convegni, ma anche passeggiate ecologiche, visite guidate ai manufatti idraulici e concorsi con le scuole. La manifestazione assume quest'anno ancora maggiore rilevanza visto il dibattito politico in corso. Il tema dell'edizione del 2014 sarà infatti «La terra chiede aria, l'acqua cerca spazio». Il programma è disponibile sul sito www.bonifica-uvb.it.